Sai che l'Australia in realtà non esiste? Come non esiste? Sì, è la versione internazionale del meme che gira sul povero Molise. Sai, in Italia che sì? Si dice che... Beh, che non esiste. Sì. Salutiamo tutti i molisani all'ascolto, naturalmente. Pizzicando un po' sull'internet, c'è questa teoria complottista, oppure semplicemente una bella battuta, purtroppo non per gli australiani, che vuole che l'intero territorio in realtà sia una colossale trovata propagandistica per convincere la gente che appunto l'Inghilterra abbia portato in questi territori un sacco di fuorilegge deportati, come poi vedremo, ma in realtà li avrebbe semplicemente gettati nell'Oceano Pacifico. E tutti quelli che dicono di arrivare dall'Australia sarebbero degli attori pagati, e anche ieri quando atterrano in realtà atterrano su un set cinematografico. Naturalmente questa è una colossale come posso dire, bufala. Esattamente. E... però anch'io voglio essere pagato per far finta di... beh, potrebbe essere... sì, ora. Sì, anche Milano non esiste, quindi veniteci a trovare, siamo su un set cinematografico. Quello che però esiste veramente sono le piante di cui andiamo a parlare oggi. In particolare, una pianta molto particolare. La pianta di oggi, che vediamo così per darci la botta finale prima di Natale, è la Dendrocten hemorrhoides, di cui uno dei nomi comuni è pianta del suicidio. Io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questa è Insana Pianta. Benvenuti. Ciao. Dunque, prima di andare avanti proviamo assolutamente a dissipare ogni dubbio sull'esistenza dell'Australia, almeno raccontando qualche aneddoto interessante sulla sua scoperta e sulle prime forme di civiltà che hanno avuto appunto luogo su questa bella terra. Sicuramente possiamo dire questo, che fin dall'antichità, insomma, la gente era sicuramente più furba di noi, più sveglia, e ci sono arrivati molti resoconti di studiosi che, senza averla vista, erano consapevoli che dall'altra parte del mondo ci fossero delle terre. In particolare vorrei citarne due: un certo Pomponio Mela, uno studioso geografo latino del primo secolo d.C., e poi ovviamente il celeberrimo Tolomeo, anche lui della tarda età classica. E entrambi sostenevano che appunto per una questione di proporzioni, così come c'era acqua e terra a nord dell'emisfero, così doveva esserci anche a sud. L'emisfero australe è chiamato così appunto per ricordare un vento che nel Mediterraneo spira da sud, portando appunto aria calda, arida e secca. E con questi ritenevano tra l'altro che in questo territorio si trovasse anche l'origine del Nilo. Questo naturalmente non ci avevano preso, ma su tutto il resto sì. E chiamavano questa terra misteriosa Terra Australis Incognita, appunto per segnalare che di questa terra nessuno sapeva nulla, ma che doveva esserci per forza. Quando Alessandro Magno raggiunge i territori in Oriente, si diffondono leggende, che poi dureranno per tutto il Medioevo, che vuole questi territori misteriosi, orientali, meridionali, abitati da gente con l'aspetto di cane, gente che aveva la faccia in realtà sul dorso, e i miei più simpatici sono gente dotata di un solo piede, ma enorme, che serviva loro per fare ombra durante le pennichelle pomeridiane. C'erano naturalmente anche mostri, basilischi, e tutti questi ritrovati trovano appunto modo di apparire nel folklore occidentale, nelle leggende, ma anche nelle opere di letteratura, nei romanzi cavallereschi e addirittura in alcune opere di William Shakespeare. Quindi, quando arriva Marco Polo in Oriente, raggiunge l'odierno Vietnam, poi la penisola della Malacca, e diffonde appunto questa notizia che ci sono delle terre da queste parti. Anzi, si diffonde la concezione che tutto questo emisfero sia effettivamente popolato da re. Il problema è che quando arrivano i primi europei in missione sulle loro navi, non trovano nulla, perché fanno fatica appunto a orientarsi. La latitudine e la longitudine c'erano come concetti, ma mancavano ancora gli strumenti per tenerle bene traccia. In particolare, quando Magellano finalmente arriva in questo oceano, trova una distesa calma appunto tra le onde e decide di chiamare questa parte dell'oceano Oceano Pacifico. Tra la fine del 500 e il 600 gli spagnoli e gli olandesi si alternano nelle loro ricerche, nelle loro scoperte. In particolare voglio citarne due: uno spagnolo che cercava la gloria di Dio e distese enormi d'oro, un certo Pedro Fernandez de Quirós, che in realtà non raggiungerà mai l'Australia, ma semplicemente le isole oggi conosciute come Nuove Ebridi. Lui però, preso da questo fervore religioso, si convince di aver raggiunto un nuovo continente e chiama il territorio Australia dello Spirito Santo, quindi l'Australia dello Spirito Santo, quasi a congiungere dunque il nome classico con invece questo suo grande fede. Un altro personaggio che invece ci tengo a citare è un certo Abel Tasman, lui invece olandese, non raggiungerà, o meglio, lo raggiungerà, ma solo nel suo territorio settentrionale, l'Australia, senza però capire di essere arrivato dove era arrivato, e chiamerà questo territorio Nuova Olanda, senza dirà per il resto reclamarlo in alcun modo. Era molto più interessato ad altre isole, che poi saranno note col nome di Nuova Zelanda e Tasmania, appunto il ricordo del suo nome. Ma l'utilità più interessante di questi territori fino all'Ottocento era una e una soltanto. Molti mercanti asiatici si recavano appunto su queste isole e sull'Australia stessa, sulle coste settentrionali, per catturare lumaconi giganti e con questi lumaconi fare qualcosa di molto simile a un afrodisiaco. E questa è stata l'utilità dell'Australia fino appunto all'Ottocento. Per quel che riguarda gli spagnoli e gli olandesi, invece, non se n'è ricavato nulla di molto interessante. La parte però era più utile è quando arriveranno gli inglesi. Gli inglesi, come molti altri, devono combattere con due problemi nella navigazione in questi territori: la mancanza di uno strumento utile per misurare la longitudine e un altro invece era una malattia, cosiddetto scorbuto. Che cosa prevedeva quest'ultimo? Che la mancanza di vitamina C portasse enormi difetti all'organismo, tanto da portare alla morte di diversi marinai. Quindi questi equipaggi decimati di fatto facevano sì che queste spedizioni fossero estremamente funestate. Uno di questi navigatori però è destinato a cambiare per sempre la sorte di queste terre e il suo nome è James Cook. Cook riceve dall'ammiragliato una missione importante, siamo nel 1768. Il suo scopo è semplice: o raggiungere il territorio del nuovo continente che si trova appunto dove sappiamo esserci l'Australia, oppure dimostrare che di fatto là ci sono semplicemente alcune isole e nient'altro di interessante. Inoltre un'altra missione: raggiungere Haiti in tempo utile per misurare la distanza del Sole dalla Terra. In che modo, mi chiederai? Semplicemente perché si sapeva che Venere sarebbe passato davanti al Sole, quindi con i loro strumenti all'epoca si poteva già stimare più o meno questi valori. Cook, tra l'altro, aveva un asso nella manico. L'annasso nella manica. Sapeva infatti di questa malattia, lo scorbuto, e sapeva anche di un modo per combatterla. Dato che non poteva portarsi quantità inimmaginabili di frutta dietro, aveva trovato un altro espediente per far appunto ricavare ai marinai le sostanze necessarie. Questi sarebbero stati i crauti, uno sciroppo di malto e la cosiddetta portable soup, una zuppa portatile, che era molto simile al nostro dado di brodo. Infatti era un brodo di carne molto rappresso per formare appunto dei dadi poi da mangiare. Grazie a questo espediente, nei suoi 3 anni di navigazione, non ci sarebbe stata nemmeno una vittima a causa di questa malattia. A bordo dell'Endeavour, la sua nave ammiraglia, avevano preso posto anche altri personaggi, non solo infatti marinai ufficiali, ma anche un astronomo inviato dall'osservatorio di Greenwich e un gruppo di scienziati, questa volta finanziati da un privato, un certo Joseph Banks. Banks era un botanico sfegatato fan di Linneo, uno dei padri della botanica moderna, che aveva questo pallino, essere il primo botanico a esplorare i mari del sud. E a un amico avrebbe detto qualcosa di simile: in Italia può andarci qualsiasi imbecille, io voglio essere il primo invece a fare il giro del mondo. Porta con sé sulla nave anche alcuni domestici, dei cani, 2 pittori molto bravi e un altro botanico, un certo Daniel Salander, che gli darà una mano per quello che avverrà tra poco. Dunque, la spedizione di Cook tocca Rio de Janeiro, la Terra del Fuoco, Tahiti, dove appunto misurano con i nuovi strumenti le distanze richieste, e alla fine arrivano nella Nuova Zelanda. Della cosiddetta Australia non c'è alcuna traccia. Cook però ha con sé le carte dell'olandese, colui che aveva dato il nome appunto alla Tasmania, e decide quindi di ripercorrere il suo tragitto a ritroso, e così si imbatte in quella che il suo collega aveva chiamato Nuova Olanda, senza tra l'altro reclamarla. Raggiunge però la parte meridionale dell'Australia e sbarca. Quando sbarca è accolto da alcuni colpi di lancia e evidentemente gli australiani non erano molto desiderosi di fare nuove conoscenze, ma i due gruppi si fanno una bella pace quando Cook inizia a mostrare che lui con sé ha delle pistole abbastanza efficaci. Quindi con questa accoglienza Cook può conoscere gli aborigeni, le popolazioni locali, e sembra che abbia ammirato di questa gente qualcosa che gli altri invece non erano riusciti ad apprezzare: il fatto che vivono in una serenità che non è turbata dalle disuguaglianze di condizione. Infatti queste popolazioni non conoscevano la proprietà privata e non sapevano appunto che cosa fossero le disuguaglianze di condizione. C'è da dire che vivevano sicuramente una vita molto dura e avevano una concezione di bambini e degli anziani che vedeva l'individuo venire in secondo posto rispetto alla comunità. Quindi chiunque fosse di intralcio alla loro possibilità di muoversi doveva essere eliminato. D'altra parte però avevano questo che agli occhi di Cook era senz'altro un merito. Dunque, cosa accade? Cook fa sì che i due studiosi, i due botanici che si erano portato dietro nel suo viaggio, potessero iniziare a raccogliere dei campioni di piante locali, e si portano sopra alla nave qualcosa come 30.000 esemplari, 3.000 specie, di cui 1.600 totalmente nuove. Avrebbe voluto nominare la baia il porto delle razze, appunto per il ricordo di questi pesci che abitavano questi fondali, ma avendo visto la sua cabina e tutte quante le cabine della nave riempite di disegni, di dipinti e soprattutto di questi esemplari, decide di ribattezzare il luogo del loro sbarco come Botany Bay, la baia della botanica, e i due capi, i due promontori che circondano la baia, capo Banks e capo Salander, appunto il ricordo dei due studiosi, dei due botanici. E tutto il territorio da lui scoperto verrà soprannominato Nuovo Galles del Sud. Dato che l'Endeavour era stata colpita da uno scoglio, si era incagliata ed era stato necessario disincagliarla, tutti i cannoni erano stati buttati in acqua. Quindi il giorno in cui ufficialmente l'Australia entra a far parte dei domini britannici, invece di colpi di cannone, sono dei semplici colpi di moschetto ad accogliere la notizia. Detto ciò, con a bordo tutte queste piante, il gruppo di scienziati, di naviganti, fa rotta invece verso l'Inghilterra e per 18 anni nessuno sentirà parlare dell'Australia e di tutte le piante che erano state qui trovate. Sì, l'Australia effettivamente ha un patrimonio botanico ricchissimo e curioso, perché ci sono moltissimi generi e specie che assolutamente nel resto del mondo non si erano mai viste e non si vedono tuttora se non per importazione. Noi abbiamo scelto appunto di parlare di quella che si chiama Dendrocnide moroides, proprio in virtù di quello che racconteremo della sua tossicità per gli animali. Di fatto la Dendrocnide moroides viene chiamata anche albero del suicidio, e il nome comune anche usato anche in inglese è Jimpy Jimpy, deriva proprio dalla lingua degli aborigeni della zona in cui cresce e significa la pianta che punge. Tra l'altro in inglese l'altro nome comune è Stinging Tree, quindi appunto di nuovo l'albero che punge, eppure quello latino Dendrocnide moroides. Dendrocnide deriva da dendron, che è albero in greco, e cnidos, che è ago, sempre in greco. Quindi di nuovo è sempre il significato, sempre quello. Moroides perché porta dei frutti che sono come dei piccoli lamponi rosa, quindi ricorda un pochettino i frutti del gelso, e moroides, essendo che il nome scientifico del gelso è morus, il genere a cui appartiene il gelso, moroides significa somigliante al gelso. È una pianta della famiglia delle urticacee, che, come si può facilmente supporre, un'orticacea è la comunissima ortica. Una curiosità è che urticacea è anche la pilea, che è una pianta che ha spopolato su Instagram e ora spopola un po' ovunque come pianta d'interno. È una piccola pianta utilizzata appunto come pianta d'appartamento, perché non è adatta nel nostro clima a stare all'esterno, e ha delle foglie tonde, perfettamente circolari, quindi è andata di moda, è particolarmente bella, e anche lei è un'urticacea. A differenza della pilea, la maggior parte delle urticacee ha la caratteristica, come tutti abbiamo più o meno provato nella nostra vita, di avere dei peli che si chiamano tricomi urticanti. Sostanzialmente sono delle strutture, si dice, degli aghi fatte apposta per rompersi al contatto. E nel rompersi, nell'atto di rompersi, si infilano nella pelle dell'ospite e rilasciano una sostanza solitamente tossica, urticante, che nell'ortica genera l'effetto che conosciamo. Nel caso della dendrocnide è tutt'altro, poi vedremo. Comunque, che aspetto ha la Dendrocnide moroides? È questa pianta alta massimo 2-3 metri, con delle foglie molto grandi a cuore, come aspetto pelose, perché i peli sono proprio vistosi, e di per sé appunto poi ha queste bacche rosate. Non è una pianta dall'aspetto particolarmente interessante, ma in realtà non ha neanche caratteristiche che segnalino di stare lontane, nel senso non ha spine, non ha colori particolarmente vistosi, non ha niente di particolare, tant'è che una delle storie legate a lei è di un ufficiale inglese che utilizzò una sua foglia, dato che sono molto larghe, come carta igienica. Pessima scelta. Esatto, il risultato fu che si suicidò perché impazzì sostanzialmente per il dolore. Dopo appunto vedremo perché succede questa cosa. Di dove è originaria? Appunto di parte dell'Australia orientale e di alcuni arcipelaghi che sono le isole della Sonda e le Vanuatu, che sono sempre a nord dell'Australia orientale di fatto. Attualmente è classificata anche come specie minacciata nel Nuovo Galles del Sud perché, come dire, sono veramente pochi gli esemplari rimasti ed essendo chiaramente una specie autoctona che si trova solo lì, chiaramente va tutelata nel suo habitat naturale. Cresce nella foresta pluviale e in particolare è una specie colonizzatrice. Le specie colonizzatrici sono tutte quelle che in ambiti disturbati, quindi per esempio quando anche realizziamo una strada, i bordi del cantiere sono ambiti disturbati. O ariamo un campo, lo abbandoniamo, è un habitat disturbato, non è un ambiente naturale lasciato a se stesso. E le specie colonizzatrici sono quelle che in natura sono più forti, più veloci a crescere e sono le prime, una dei nostri ambienti è il pioppo, sono le prime, o la robinia da noi naturalizzata, sono le prime a crescere in questi ambiti. Poi piano piano lasciano lo spazio a specie come per noi la quercia, che vivono più a lungo ma richiedono più tempo per crescere. Quindi lei è una colonizzatrice della foresta pluviale che cresce proprio nelle aree disturbate, sui pendii, nei canyon e nelle macchie di luce che rimangono nella foresta quando per esempio muore un albero, rimane uno spazio più luminoso, lei cresce proprio lì. E quindi sostanzialmente lei è questa pianta che potremmo trovare tranquillamente all'interno della foresta pluviale, ma lo racconto dopo. Dobbiamo assolutamente starle lontana, tant'è che nei progetti di conservazione attualmente in atto è previsto comunque di mettere dei cartelli a una certa distanza dalla pianta che avvisino di non avvicinarcisi. Chiaro. Certamente questa è una pianta eccezionale, da sotto tutti i punti di vista. Un'altra pianta che gli europei non avevano mai visto fino ad allora, fino a queste prime esplorazioni, era sicuramente invece l'eucalipto, un'altra pianta di questo territorio che però possiamo dire un po' meno pericolosa almeno. E l'eucalipto è molto interessante il fatto che i pittori locali ci abbiano messo 20 anni prima di iniziare a rappresentarlo effettivamente com'era e non come una copia di pioppi o dolmi inglesi. Ci sono molti racconti di queste prime esplorazioni in cui questo territorio viene descritto con paragoni a giardini inglesi, in quanto così lontani da casa chi teneva appunti diari cercava appunto di ricordarsi la propria terra d'origine facendo dei paragoni con il nuovo luogo rispetto appunto con quelli che aveva lasciato. Lasciamo però questi dettagli botanici per il prossimo slot, e sicuramente vale la pena raccontare di quello che accade dopo 18 anni da questa prima esplorazione di Cook. Infatti in Inghilterra e in generale in Occidente tutti vanno pazzi per Tahiti, data la sua popolazione estremamente interessante anche dal punto di vista antropologico, fatto da queste principesse, questi principi molto appunto esotici, e anche per i territori della Nuova Zelanda. Nessuno però si fila di Striscio, la povera Australia, che appunto per ora però vede preservata la propria popolazione, gli aborigeni. Infatti questa gente era lì da 40.000 anni fa, erano arrivati in un periodo del Pleistocene. e fino ad allora la campana di vetro che li tutelava dal resto del mondo era rimasta intatta e avevano continuato appunto a seguire le loro tradizioni, seguire appunto il loro stile di vita fatto di attività legate alla caccia e al raccogliere risorse e appunto questa vita nomadica. Cosa accade però nel 1783? Diventa ministro a Londra, diventa ministro degli interni e delle colonie un certo Lord Sydney. Il nome non è assolutamente casuale. E la prima minaccia che deve affrontare questo Lord è il fatto che le prigioni inglesi siano letteralmente straripando di prigionieri. Bisogna dire che all'epoca bastava veramente molto poco per finire in prigione, o peggio, e tra poco vedremo alcuni casi. Dunque, per far fronte a questo sovraffollamento, l'Inghilterra aveva trovato alcune valvole di sfogo. Sicuramente la più interessante è il fatto che questi condannati venissero venduti agli abitanti inglesi delle 13 colonie. Ai lavori forzati, dopo un pagamento, il colono poteva avere per un certo periodo di anni questi deportati e usare e sfruttare la loro forza lavoro. Quando però gli Stati Uniti diventano indipendenti, dopo le guerre di indipendenza, appunto, decidono di rifiutare altro personale costretto ai lavori forzati dalla madrepatria. E nel far ciò adducono appunto come spiegazione il fatto che la nuova repubblica non vuole questi schiavi bianchi. Bianchi è la parola che ci serve, infatti semplicemente dietro questa affermazione c'era una certa ipocrisia, in quanto era molto più conveniente far arrivare migliaia di schiavi invece dall'Africa per la loro nuova economia. Quindi l'Inghilterra ha bisogno di altre soluzioni. Inizialmente vengono utilizzate queste navi prigioni, quindi costringere i condannati a passare la vita sopra queste navi prigioni e a compiere diversi lavori, soprattutto per quel che riguarda la pulizia dei fiumi e dei laghi. Ma anche in questo caso i porti lamentano la presenza di queste navi ancorate tutto il giorno appunto ai loro ormeggi. Serve allora un'altra soluzione. Nel 1784 viene approvato il Transportation Act, con il quale appunto si stabilisce per legge di deportare i detenuti non più negli Stati Uniti, ma in una nuova regione oltre mare. E Banks, il botanico di cui abbiamo parlato prima, sostiene che Botany Bay potrebbe essere un'ottima soluzione. Alla fine queste navi potrebbero depositare là appunto i condannati e in questo modo ottenere anche, costringendo ai lavori forzati, far nascere delle nuove colonie. Bisogna dire che c'erano sicuramente degli altri motivi per andare a impadronirsi di questi territori. Sicuramente tra questi troviamo l'opportunità di controllare la pianta del pino e anche le piantagioni di lino che potevano essere là appunto portate. C'è da dire che, così come prima abbiamo parlato dei crauti e dello sciroppo di malto, e quelli hanno permesso agli europei di raggiungere l'Australia, così come i circuiti integrati hanno permesso agli statunitensi di andare sulla Luna. Adesso invece, un altro paragone può essere utile, i pini e il lino sarebbero il nostro petrolio e l'uranio, quindi risorse fondamentali, in quanto all'epoca le navi venivano infatti costruite utilizzando il legno di questa pianta e le vele invece avevano necessità di lino appunto. Ma questo è sicuramente un motivo secondario. Quello primario era sicuramente avere delle valvole di sfogo per deportare questi prigionieri. Un'altra ipotesi era quella che vedeva la nascita di queste colonie come un modo per arginare la potenza francese in questo territorio, o meglio in questo quadrante di mondo nel Pacifico. C'è da dire però che le guerre napoleoniche non vedranno alcun conflitto in questo luogo e se ci fosse stata la volontà da una parte degli francesi di invadere il Nuovo Galles del Sud, da parte degli inglesi di proteggerlo, sicuramente avrebbero inviato delle guarnigioni più consistenti. Naturalmente invece si parlava di poche centinaia di uomini. E inoltre sappiamo che Napoleone aveva anche progettato di invadere l'Australia, poi non se ne fece nulla. Dunque, il cosa è chiaro, creare una nuova colonia penale in questo territorio da poco reclamato. Dobbiamo capire come e anche chi guiderà questa spedizione. Dunque, vengono preparate 11 navi, 6 delle quali saranno destinate al trasporto dei prigionieri. Ci tengo a dire che una di queste navi aveva il nome di Alexander, così possiamo fare un aneddoto e che possa collegarci a un altro episodio. Ed era la nave più grande, era infatti lunga 35 metri e larga, nel punto più largo, ben 9 metri. C'è da dire che, secondo gli standard odierni, queste navi erano estremamente piccole e sovraffollate. Dunque, la nostra flotta è pronta, viene soprannominata Prima Flotta, ci manca qualcuno che la possa guidare. E la scelta ricade su un certo Arthur Philip, un uomo che fino ad allora era stato per lo più poco noto, era veramente nell'ombra. C'è da dire che all'età di 16 anni sappiamo che Philip si era imbarcato sulla sua prima nave, aveva partecipato alla guerra dei 7 anni contro la Francia, ma poi non aveva fatto nulla più di significativo, tranne una cosa. Aveva ottenuto dall'ammiragliato il permesso di servire il Portogallo in una missione in particolare. Aveva condotto alcune navi con ben 400 prigionieri dal Portogallo fino al Brasile, senza perdere alcuna nave. E questo sicuramente è qualcosa che aveva attirato l'attenzione di Lord Sydney, che infatti prevede che Philip riceva l'incarico. La lettera consegnatagli da un emissario del re, Giorgio III, gli arriva esattamente il giorno dopo del suo compleanno. Aveva da poco appunto compiuto 48 anni. E questa missione prevede che lui possa guidare la spedizione e poi diventare governatore di una nuova terra, appunto il Galles del Sud. Philip accetta e bisogna dire che sebbene fosse un uomo riservato a terra, era estremamente efficace ed efficiente a bordo. Ed è anche ricordato, una volta che diventerà governatore, per aver dimostrato un certo equilibrio e anche giudizio, nonché un innato senso di giustizia nell'amministrare questo territorio. Purtroppo una serie di qualità che non saranno comuni invece con altri governatori che arriveranno poco dopo. Dunque, la nostra prima flotta è pronta, abbiamo un capitano, vediamo adesso chi ci salirà a bordo. In totale saranno circa 1050 persone, tra marinai, ufficiali e ben 750 sono i prigionieri. Ma chi è che veniva mandato in Australia come estrema punizione? Anzi, come segno di grazia, perché molti venivano graziati invece da una pena di morte. Purtroppo, per loro, abbiamo alcuni esempi di personale che venne appunto di persone che vennero costrette a questo viaggio. Voglio citarne semplicemente due, una donna e un uomo. Abbiamo infatti la testimonianza di una certa Elizabeth, di 22 anni, disoccupata, che aveva rubato da una cucina un po' di pancetta, della farina e ben 1,5 kg di burro. Per questo gravissimo reato, naturalmente siamo ironici, venne condannata a morte. Venne però graziata e spedita in Australia, dove avrebbe dovuto servire per 7 anni. Naturalmente non tornerà mai più, né possiamo immaginare che assaggerà mai più il sapore del burro. Quindi caro gli era costato questo terribile furto. Un altro uomo, un certo Thomas, originario dei Caraibi, si era invece macchiato del terribile crimine di aver divelto 12 piante di cetriolo da un orto privato. E per questo si sarebbe meritato appunto di finire in Australia, anche lui graziato naturalmente dalla invece certa pena di morte. Bisogna dire che tra questi 750 prigionieri era stato seguito un semplice criterio, quello che fossero quanto più possibili giovani, quindi adatti al lavoro e anche a prosperare, a far figli e ad aumentare il numero dei coloni. Ma per creare una colonia dove la terra andava appunto lavorata, le professioni era stato qualcosa di completamente ignorato. Tra tutti i 750 prigionieri, i nostri carteggi riportano un unico giardiniere, che era un giardiniere professionista sì, ma di solo 20 anni. Solo due muratori, ancora, per costruire case per tutto questo bel equipaggio. Quindi questa spedizione si prepara a partire. Philip si lamenta moltissimo con l'ammiragliato, perdonate, in quanto non era stato dato alcuna contromisura per combattere il rischio di contrarre lo scorbuto. Ci penserà lui allora. Studiò un modo per far organizzare il passaggio da un porto sicuro a un altro e fare là rifornimento di cibo utile per superare la traversata. Dunque, la prima flotta parte nel maggio del 1787. Durante il viaggio si farà tappa a Tenerife, a Rio de Janeiro e poi riattraversando l'oceano ancora a Città del Capo. Nel secondo mese di viaggio il tifo compare su queste imbarcazioni. Fortunatamente si fa uno scalo e le navi vengono disinfettate, pulite e purificate. Il viaggio riprende e nel gennaio del 1788 la spedizione della prima flotta, guidata da Arthur Phillip, arriva a Botany Bay. Contrariamente a quanto aveva detto il botanico, non era per niente adatta a fondare una colonia. Quindi la spedizione va un pochino più a nord, dove all'epoca di Cook era stato individuato il cosiddetto Port Jackson. E Philip, che era arrivato dopo 252 giorni di spedizione senza perdere nemmeno una nave e avendo solo, potremmo dire, 48 morti a causa del tifo per lo più, quindi il 3% del totale, trova una baia, che decide di soprannominare col nome del Lord che aveva organizzato la spedizione. Nasce così Sydney Cove, che darà poi nome appunto alla città australiana dello stesso nome. Finisce così il viaggio di Philip, viene a spezzarsi la capanna di vetro che aveva protetto fino ad allora gli aborigeni, ne moriranno tantissimi, non tanto per i colpi di moschetto degli europei, ma a causa delle malattie, e inizia invece la lotta per la sopravvivenza nella terra dell'Australia. E così come il viaggio di Philip, è finito anche il nostro viaggio. Possiamo quindi arrivare a delle conclusioni, ma prima la velenosità di questa pianta. Sì, tra l'altro a livello di lotta di sopravvivenza appunto, come dire, le piante sviluppano sempre, hanno sviluppato nel corso della loro evoluzione, le varie specie, metodi per appunto tenere lontani gli animali, per proprio sopravvivere. Quindi c'è sempre, si chiama pressione selettiva, un motivo per cui degli agenti esterni causano l'evoluzione della specie in un determinato modo. Mi chiedo onestamente quale sia la pressione selettiva che ha causato alla Dendroctyle moroides lo sviluppo di queste caratteristiche, perché lei appunto, come la nostra ortica, ha questi peli che si spezzano e rilasciano la neurotossina, ma lei non solo al contatto rilascia questi peli, ma li sparge costantemente intorno a sé. Quindi anche solo passando di fianco alla pianta si possono inalare i peli, i tricomi, prenderli negli occhi o prenderli più facilmente nella pelle. Sono talmente sottili che è impossibile tirarli fuori, un po' come in realtà anche se ci pensiamo, appunto anche quelli dell'ortica, quando ci entrano nella pelle semplicemente ci facciamo passare il dolore, non riusciamo come una spina a tirarli fuori. Quelle della Dendroctyle sono ancora più sottili, sono cavi all'interno, sono fatti proprio come un ago di una siringa, sono silicei, non c'è modo di tirarli fuori, e rilasciano questa sostanza, un insieme di sostanze in realtà chiamate gimpietoidi, di cui quella attualmente più nota, perché sono ancora in fase di studio, è chiamata moroidina, in virtù proprio dell'estrazione da questa pianta per lo studio. Sono sostanze che si legano ai recettori del dolore che noi abbiamo nella pelle e in generale nel corpo, bloccandoli sullo stato di segnale di dolore, quindi mandano costantemente un segnale di dolore al cervello. Di fatto non è ben chiaro come funzioni, perché appunto questa pianta sia in fase di studio sia è difficile studiarla proprio per come è fatta. E cosa succede? Che questa molecola è talmente stabile che ci auguriamo che poi i campioni mandati dall'Australia all'Inghilterra per lo studio botanico non fossero anche di Dendroctyle, perché pare che anche a distanza di anni, addirittura decenni, nei campioni essiccati di pianta questa molecola sia ancora stabile. Quindi è indistruttibile. Tant'è che, tra virgolette, indistruttibile chiaramente, tant'è che il dolore causato dalla Dendroctyle, da una puntura di Dendroctyle, è stato classificato da chi l'ha subito come un mix di elettroshock e bruciatura d'acido. Quindi una cosa, addirittura qualcuno l'ha definito 10 volte superiore a qualsiasi dolore si possa immaginare. E può durare, l'apice è alcuni giorni o alcune settimane, ma può durare per anni, in particolare per un cambio di temperatura, per contatto o per contatto con l'acqua, il dolore ritorna. Tant'è che appunto ci sono persone che si sono mutilate, suicidate, o addirittura può causare un infarto, perché è un dolore talmente forte che è un'ortica all'ennesima potenza. Però non tutti gli animali sono affetti dalla moroidina e compagni. In particolare c'è il pademelon dalle zampe rosse, che è un piccolo marsupiale chiaramente australiano, che si nutre delle sue foglie e sostanzialmente probabilmente è ignaro della tossicità della pianta, non si sa, lui se ne nutre e non succede niente. Quindi sta una crema dopo essersi mangiato la pianta. Esatto. Vabbè, beato lui. E lui è l'unico mammifero noto immune dalla neurotossina. E ci sono anche alcune larve di lepidotteri, cioè bruchi di farfalle, per dirle in modo più comprensibile, che si nutrono delle sue foglie senza particolari problemi. e gli uccelli si nutrono dei frutti disperdendo poi semi, quindi chiaramente qualcuno nell'infinità delle specie viventi alla fine ha trovato la sua nicchia per potersene nutrire. Ma tutti gli altri animali sono noti casi di cavalli, per esempio, che si sono impazziti e sono gettati dalle rupi perché erano impazziti dal dolore. Addirittura, sicuramente documentato, è il cavallo di un locale che appunto morì 2 ore dopo perché aveva talmente tanto dolore che morì di dolore. Quindi è assurdo pensare che ti punge una pianta che sta anche spargendo i suoi peli intorno, quindi tu semplicemente le passi di fianco, non l'hai neanche vista, non te ne frega veramente niente di lei, ci passi di fianco e poi 2 ore dopo muore dal dolore che ti ha causato questa cosa. Quindi è veramente oscena, possiamo dirlo. Però in tutto ciò c'era una comunità aborigena del Queensland settentrionale, se lo pronuncio giusto, chiamata Kukuyalanji, poi ora non sono esperto di lingue aborigene, che usavano i frutti e le radici della pianta per preparare un composto che diventasse una volta spalmato appiccicoso, come sostanzialmente una analoga striscia depilatoria, per strappare fuori dalla pelle i peli, i tricomi spezzati. Questo metodo chiaramente non funzionava sempre, però, come dire, un rimedio in qualche modo era stato trovato. Infatti, tutt'oggi viene detto che l'unico rimedio possibile contro la dendrocnide, anche perché qualche pazzo ci prova a coltivarla ogni tanto, è proprio di strappare fuori i tricomi spezzati dalla pelle, come fosse una specie di ceretta, ecco. Di storie appunto legate alla velenosità della dendrocnide ci sono, per esempio, la povera Marina Hurley, che è un'entomologa ed ecologa, che studiando la pianta per motivi appunto di interesse scientifico, nonostante avesse la maschera e i guanti protettivi, venne punta e inalò addirittura i tricomi. Quindi andò in ospedale dopo ore che aveva un forte mal di gola e continuava a piangere, e il dolore continuava a peggiorare, e lei appunto lo definì come un mix tra elettroshock e bruciatura da acido. Poi, con una cura steroidea e vari interventi medici, riuscì chiaramente a superare il dolore, ma sviluppò una forte allergia che le rimane tuttora. Poi un militare, ci sono molte storie legate ai militari, legate alla dendrocnide, proprio appunto per tutta la serie di militari che venivano spediti lì. Un militare, Porello, che ci cadde dentro durante un'esercitazione per la Seconda Guerra Mondiale, aveva questi dolori lancinanti, venne legato a un letto d'ospedale per 3 settimane e sottoposto a tantissimi trattamenti, tutti inefficaci, e lui venne descritto pazzo come un serpente tagliato a metà, perché stava talmente male che era così. E proprio lui raccontò dell'ufficiale che si suicidò avendola usata come carta igienica. Quindi è comprensibile che è veramente agghiacciante questa pianta in realtà. E semplicemente è il suo modo di, come dire, dire al resto del mondo, tranne le poche specie animali che riescono, di lasciarla stare. Cioè lei su questo ci è riuscita assolutamente. Sicuramente nessuno va a strappare la dendrocnide minacciandone l'esistenza. Ecco. È riuscita nel suo scopo, diciamo. Esatto. Quindi, potendo arrivare alle nostre conclusioni, possiamo dire che questa si colloca sul podio tra le più micidiali piante che abbiamo visto in questi nostri episodi. Sì, è giudicata da diverse fonti la pianta più pericolosa al mondo. Quindi ha vinto tutto nel gioco della vita. Che prima di Natale, al posto della stella di Natale, insomma, diciamo che è qualcosa di un po' più bene. Quindi questo è tutto ciò che avevamo da dirvi sulla Jimpy Jimpy. Vi auguriamo dal profondo del cuore di non trovarla mai. Esatto. Se però ve ne doveste imbattere in questa pianta, mi raccomando, state molto lontani. Se siete in Australia e vedete una pianta con le foglie a cuore un po' pelosa, non dovete neanche arrivarci a vederla. Giratevi e correte nella direzione opposta quanto più velocemente possibile. Bene, dunque, potendo appunto tirare le somme su queste nostre chiacchierate, potremmo citare forse una famosa frase di uno dei miei storici preferiti, Mark Bloch, uno dei più grandi storici del secolo scorso e forse uno dei più grandi storici mai esistiti. Lui infatti, nella sua opera più famosa, più importante, Il mestiere dello storico, conosciuta più come Apologia della storia, si chiede che cosa serva la storia, e in questo caso anche la botanica, quindi prendiamone entrambe. Lui si dà questa risposta molto semplice. Dice che serve per due cose. La prima è capire un po' meglio il mondo che ci circonda, e speriamo con queste nostre chiacchierate di aver meno stuzzicato la vostra immaginazione, conoscendo qualche pianta in più e qualche storia ad esse legate, perché è affascinante notare come alla fine tutte le materie siano tra loro collegate. Noi a scuola, all'università, le studiamo separate alla fine solo per una questione di semplicità, ma alla fine ogni cosa è collegata con un'altra, così come appunto, senza voler andare troppo nel filosofico, la nostra realtà che ci circonda. E l'altro motivo, dice invece sempre Mark Bloch, che se anche non servisse a nulla, la storia, così come la botanica, almeno sarebbero divertenti. E speriamo davvero di aver strappato almeno un sorriso con queste nostre chiacchierate. Io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questa è Insana Pianta. Grazie di averci ascoltato. Grazie. Ed essere stati con noi fino ad adesso. Prima di salutarci, dei ringraziamenti sono dovuti. Vogliamo senza dubbio ringraziare i ragazzi di Exage che qui ci hanno ospitato in questi nostri appuntamenti pomeridiani, e ringraziare anche tutti quanti voi che avete voluto accompagnarci, seguirci, riempirci appunto di commenti, suggerimenti e di apprezzamenti, sempre dal profondo del cuore, sempre apprezzati davvero in queste settimane. Naturalmente ci metteremo subito a lavoro per una prossima stagione e non mancheremo di tenervi aggiornati. Grazie anche a tutti coloro che ci ascoltano non solo dall'Italia, ma anche da ogni parte del mondo. Abbiamo chi ci ascolta dal Giappone, dall'Australia, quindi a tutti voi, a prescindere da dove siate, in diretta o in differita, mandiamo i nostri più profondi ringraziamenti e sinceri. Allora, dato il periodo, auguri di buone feste, buon Natale e a presto. Mi raccomando, ricordate che le piante non sono tutte nostre amiche, ma semplicemente fanno il loro dovere. L'importante è come si usano. Ciao, grazie.